volamos, ombre non si contorno, se numero conto mesti in corda, luce qua eribus, tempo sfuggit, sonno manet, vita fluxi con fiume e intorno. Sed lumen occultum est in corde, lucem quaerimus.